Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Completati i robot per il nuovo ponte di Genova, robot a cui sarà affidata la pulizia e la sicurezza dell'infrastruttura. Si tratta di 4 robot, 2 per il monitoraggio dell'infrastruttura e 2 per la pulizia delle barriere frangivento, che sono come delle lastre di vetro, diciamo, che corrono lungo tutto il ponte, quindi per la pulizia, dicevo, delle barriere frangivento e dei pannelli fotovoltaici. Ecco, questa configurazione, l'utilizzo di questi robot, è un caso per il momento unico al mondo. Naturalmente, quando parliamo di robot dovete pensare, in questo caso non certo a un robot antropomorfo, insomma, ma a delle macchine che per aspetto e per dimensioni assomigliano più a un carro ponte, a una ruspa, insomma a un grande macchinario industriale. Ma insomma, molto meglio di come possa descriverli io ce li può descrivere il nostro ospite, Ferdinando Cannella, responsabile degli Industrial Robotics Lab dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, e responsabile IT anche per la progettazione, appunto, dei robot del ponte. Buonasera Cannella, benvenuto. Ciao e buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Allora Ferdinando, 2 robot, partiamo dal primo, che è quello forse un po' più semplice, che è questo robot wash, quindi destinato alla pulizia di queste barriere frangivento. Sono delle lastre di vetro verticali che appunto servono a fermare le raffiche di vento. Il primo robot, appunto chiamato robot wash, serve per pulire senza tenere abbastanza trasparenti, diciamo così, la barriera, in modo tale che il ponte rimanga più leggero dal punto di vista estetico. Parallelamente c'è anche la pulizia invece del pannello solare, che è inclinato a 45 gradi sul bordo ponte, che invece, come sappiamo bene, deve mantenere una certa, diciamo così, anche lì trasparenza, altrimenti non abbiamo l'efficienza, certo, dei raggi solari. Quindi questo è lo scopo principale di questo primo robot, nonché, dotato sempre di qualche telecamera per la sua movimentazione, dà un'occhiata sempre se il bordo ponte è libero o sgombro da eventuali ostacoli o problemi. Questo robot, come l'altro, si muove, è attaccato, diciamo, ad un binario che corre all'esterno del ponte, ed è un robottone in realtà. Ecco, sono 2000 kg di robot, 56 ruote, leggo, e ha un robot alto 3,5 metri, quindi è un oggetto piuttosto grosso. Sì, tecnicamente parlando si chiama portale come struttura, perché appoggia su delle ruote all'interno del ponte, sul grigliato che è vicino al guardrail, e dall'altra invece appunto va su questa rotaia che gli permette poi di guidare il robot, e sia di spingerlo, farlo muovere, ma sia di tenerlo anche in equilibrio, perché comunque 3,5 metri per 2 tonnellate, a quel vento, di quell'altezza, deve essere ben stabile. Arriviamo all'altro robot, che tra l'altro è più complicato, che è il robot dedicato all'ispezione del ponte. Come è fatto e che tipo di osservazioni fa? Allora, l'altro robot, al contrario del primo, è tutto sotto il ponte, perché il primo è appunto sopra, in quanto le barriere e i pannelli sono al di sopra del bordo ponte. Viceversa, questo è completamente a sbalzo sotto, e quando dico sbalzo è in effetti un vero e proprio, chiamato tecnicamente, mensola. Perché? Perché esce di ben 17 metri sotto al ponte, perché deve arrivare fino al centro, in quanto deve ispezionare con delle telecamere ad altissima risoluzione e varie, diciamo, tecnologie, diciamo così, di visione multispettrale, per vedere anche la natura di eventuali difetti, eccetera. Quindi ha queste telecamere montate su di esso, che scansiona come fosse una fotocopiatrice la parte inferiore dell'impalcato, dall'inizio, da una spalla fino all'altra. Dicevamo in apertura che è una prima mondiale l'utilizzo di robot in questo modo e in questo contesto. Avete dovuto affrontare quindi dei problemi nuovi. Sì, infatti il problema principale era appunto l'autonomia, cioè questo robot deve prendere delle decisioni in maniera completamente autonoma, in primis per esempio considerando che vanno a batteria, in modo tale da non aver dovuto mettere diciamo così dei cavi volanti lungo il ponte. La gestione dell'energia è fondamentale per far sì che il robot, una volta che incomincia un lavoro, abbia l'energia elettrica sufficiente per completarlo, quindi in ogni istante deve capire in base alle condizioni che ci sono, ambientali, vento, pioggia, eccetera, capire se riesce ad arrivare ad una stazione di ricarica oppure fermarsi a quella precedente per ricaricare e andare avanti. Quindi ecco, questo può sembrare un problema banale, in realtà appunto è complicatissimo. Infatti, diciamo così, a livello di laboratorio ci sono tantissimi esempi, ma a livello di applicazioni infrastrutturale chiaramente siamo i primi, nessuno si era spinto così in avanti. Poi altri problemi. Un altro problema è stato quello del salto del pilone, chiamiamolo così, nel senso che se noi scansioniamo una superficie tutta unica, tipo non so, un ponte sospeso in cui la parte inferiore è unica, allora basta un carro ponte che vada avanti e indietro. In questo caso invece, essendoci dei piloni, il nostro robot, appunto, che è telescopico e si spinge fino a 17 metri appunto di lunghezza per poter raggiungere il centro del ponte, quando raggiunge la pila si deve aprire, diciamo così, perché abbiamo un robot da una parte e un robot dall'altra, quindi deve retrarre questo braccio con le telecamere e poi continuare, diciamo così, la scansione dopo questo pilone. Questo è lo stesso, è un'altra prima mondiale, perché attualmente non c'era riuscito nessuno a fare una cosa applicata alle infrastrutture. E quindi c'è dietro tantissima ricerca fatta non solo da IT, ma anche dalla Camozzi, dalla SDA e dalla UBCV, che sono le tre aziende che ci hanno supportato, certo, in questa progettazione farli. E costruzione. Esattamente, perché c'è stato bisogno di una sinergia di cervelli non indifferente. E quindi, diciamo così, è stato un passaggio in avanti, un passo in avanti importante anche dal punto di vista tecnico e scientifico. Ecco, e anche appunto di valenza generale. Infatti questo robot è un prototipo, anche perché non solo è la prima volta che si fa questo tipo di ponte, ma un prototipo anche perché l'abbiamo fatto in maniera praticamente modulare, in cui possiamo aggiungerci nuove tecnologie in futuro, ma anche applicarlo a diverse strutture, o meglio infrastrutture che non siano ponti. Immaginiamo un grattacielo, questo robot adesso si muove in orizzontale, certo, ma potremmo anche farlo muovere tranquillamente in verticale, per esempio. Tornando invece ai robot del ponte di Genova, quando attraversando il ponte li si potrà vedere in azione? Allora, due sono già stati installati, perché stiamo facendo già un piccolo test infrastrutturale per vedere se va tutto bene a livello di geometria, eccetera. Gli altri due, che poi completeranno l'installazione, ci sarà il collaudo finale, dovrebbe essere previsto per, diciamo così, tra fine autunno, perché appunto dobbiamo anche aspettare che sia completati tutti i servizi accessori del ponte stesso. Va bene, allora, grazie Ferdinando Cannella e insomma, avanti così. Grazie a voi e arrivederci alla prossima. È tutto, ci fermiamo qui, buon fine settimana. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.